the chic of Napoli. Senza scarpa. Your love belongs to me. Senza scarpa. At night when you're asleep. Senza scarpa. Into your tent I'll creep. Senza scarpa. The stars that shine above. My bambino. Will light our way to love. You'll rule this land with me. Senza scarpa. Say I'm the sheik of Napoli. E sogno chic che Napoli. Senza scarpe mettiamo lui. Quando è notte ti vengo a trovare. Su talune ti vengo a guardare. Tu sia belle mamma. E io sogno figlie papà. Ti faccio divertire. Sogno chic. Che Napoli. Ti facciamo un'ambriaca. A basta che tu non fuma. Tu sia belle mamma. Ma bambino. E io sogno figlie papà. Se divertì sogno chic che Napoli. You rule this land with me. Say I'm the chic of Napoli. Oh, scusami, wrong tent.